Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Francesca Figliasi. Oggi a Destini Incrociati è il 15 novembre del 1933. A Torino fa già freddo. Un freddo umido, portato su dalle acque del Po che scorrono grigie fra i ponti della città sabauda. Gli alberi del Parco del Valentino e del Giardino Reale sono già quasi interamente spogli. Le foglie rosse e gialle creano un lungo e regale strascico ai piedi di ogni tronco scuro. Fra i due giardini, poco distante dalla guglia della Mole Antonelliana, c'è una lunga strada. È via dell'Arcivescovado. Al numero 7, al terzo piano di un bel palazzo umbertino, un giovane di appena 21 anni sta facendo una follia. La follia di Giulio Einaudi, questo è il nome del ragazzo, è fondare una casa editrice. Un progetto ambizioso che suo padre, l'economista di fama mondiale e futuro presidente della Repubblica Italiana, Luigi, descrive all'insegnante di liceo del figlio Augusto Monti in questi termini. «Sa una cosa, professore? Il mio Giulio si è scoperto appassionato promotore di libri e riviste. Vuol fare, dice lui, l'editore». Giulio ha un'indole entusiasta e pieno di iniziativa e soprattutto può contare su un gruppo di amici conosciuti durante gli anni del liceo, tutti dotati di intelligenza fuori dal comune. Il primo è Massimo Mila, che diventerà di lì a pochi anni il più famoso critico musicale italiano. Massimo ha solo 2 anni in più di Giulio, ma già si guadagna qualche soldo dando lezioni di latino. Fra i suoi allievi bisognosi di qualche ripetizione c'è anche il giovane Giulio, col quale stringe un'amicizia da pari a pari, tanto da volerlo introdurre nell'esclusivo circolo degli ex studenti del famoso liceo d'Azeglio, che Mila chiama con gusto da cospiratore la confraternita. Fra gli ex studenti del liceo più famoso di Torino ci sono il futuro filosofo Norberto Bobbio, Vittorio Foa, considerato uno dei padri della Repubblica, Giulio Carlo Argan, che diventerà il famoso storico dell'arte, e Leone Ginsburg, tra i fondatori del movimento Giustizia e Libertà dei Fratelli Rosselli. Anni dopo, la moglie di Leone, la scrittrice Natalia Ginsburg, ricorda la straordinaria amicizia di quel gruppo. Un'amicizia che molti di loro riuscirono a trasmettere anche alla creatura di Giulio Einaudi. Per me la casa editrice è essenzialmente un luogo d'amicizia e di affetti. È veramente difficile capire come in un'unica città e nello spazio di una manciata di anni, quelli fra le due guerre mondiali, sia stato possibile che nascessero e si formassero menti che negli anni futuri avrebbero influenzato la vita politica e culturale dell'Italia intera. Ma è indubbio che Bobbio, Foa, Mila, Argan e poi il filosofo Geymonat e tanti altri ancora abbiano segnato con le loro opere il nostro paese. Eppure, ai tempi di cui parliamo, sono semplici ragazzi che amano chiamarsi con dei bizzarri soprannomi. Bobbio è Bindi, mentre Ginsburg è Agenzia TAS. Fra tutti questi personaggi c'è un ex studente del Massimo d'Azeglio che spicca su tutti gli altri, forse per il suo aspetto serio, pensoso, davvero intellettuale. Questo ragazzo, che diventa presto amico di Einaudi, ma soprattutto il collaboratore fondamentale del futuro progetto editoriale di Giulio, è da tutti soprannominato il Barone, o più semplicemente Ces, abbreviazione del suo nome, Cesare. Questo studente con gli occhiali su un naso pronunciato e il sorriso schivo si chiama Cesare Pavese. Cesare Pavese. Pavese era la vera colonna della casa editrice Einaudi. Entrava in ufficio alle 8 del mattino e ne usciva alle 8 e mezzo di sera. Il ricordo del sociologo Franco Ferrarotti, all'epoca traduttore per l'Einaudi e amico di Pavese, ci rivela quanto il lavoro del Barone sia stato in quegli anni importante, non soltanto per la casa editrice, ma soprattutto per il futuro culturale di tutti coloro che negli anni a venire costituiranno l'humus intellettuale più vivace del paese. Grazie al suo lavoro incessante e senza riserve, Pavese riesce in poco più di 15 anni a riunire e spesso anche a formare, sotto il marchio dello struzzo con il chiodo in bocca, simbolo della casa editrice di Torino, un bellissimo gruppo di giovani entusiasti. Giovani destinati a cambiare il destino della letteratura italiana contemporanea. Primo fra tutti, un giovane che scopriremo più avanti nella nostra storia. Ma andiamo per ordine e parliamo di Cesare Pavese. Le langhe sono una grande tovaglia che la natura ha steso fra le province di Cuneo e di Alba, pronta a farsi imbandire dai vini generosi che i vitigni della zona producono da secoli con fierezza. Barbaresco, Dolcetto e Barbera maturano al timido sole del Piemonte per dare più sapore ai formaggi della zona e al tartufo scovato dai cani addestrati. Ogni collina del territorio è sormontata da un paesino serio e silenzioso che dietro le stradine svela piccole piazze dal pavimento di selciato. In un paesino come questi, Santo Stefano Belbo, nell'estrema provincia orientale di Cuneo, nasce Cesare Pavese il 9 settembre 1908. I suoi genitori sono in paese solo per trascorrere, come da tradizione familiare, le vacanze estive. Di lì a poco torneranno a Torino, dove Eugenio, il padre, è cancelliere presso il Palazzo di Giustizia. Ai piedi del castello medievale, il paese accoglie l'arrivo al mondo del piccolo Cesare con l'indifferenza di chi ha un duro lavoro nelle vigne che lo aspetta e poca dimestichezza con quei paesani che per la terra non hanno passione e che per questo hanno ormai scelto la città, tornando alla casa natale giusto per le feste comandate. Eugenio è figlio di contadini benestanti, ma con la moglie Consolina desidera un'altra vita per sé e i suoi figli. Peccato che i suoi sogni vengano cancellati da un tumore che se lo porta via quando Cesare ha solo 6 anni. Cesare rimane unico maschio in casa con la madre e la sorella maggiore Maria. La madre Consolina è una donna che si trova improvvisamente sola, senza appoggi, difesa solo dalla sua incrollabile volontà e da una rigidità di modi che spera camuffino le mille insicurezze che la perdita del marito le ha lasciato. Non è cosa facile per Consolina crescere 2 bambini. Poco dopo il lutto, si rende conto che la vita torinese diventa troppo dispendiosa per le sue entrate di vedova e decide di vendere le terre del marito e di trasferirsi poco fuori la città. Consolina ci prova a educare, prova a segnare un percorso, a far sentir protetti i suoi 2 figli, si traveste da uomo, figuratamente, fa la voce grossa, l'autoritaria, ma così facendo si allontana dai suoi figli. Remota, distaccata nei confronti dei bambini, investe le poche energie rimastele per combattere contro lo spettro della povertà e quel che resta non basta per infondere calore a Cesare e Maria. È sempre Natalia Ginzburg, forte invece della vitalità che la sua famiglia le ha trasmesso durante l'infanzia e che lei in seguito ha immortalato in lessico familiare, che tempo dopo riesce a tratteggiare il vuoto affettivo che circonda Pavese in quegli anni e che lo scrittore si trascinerà dietro per tutta la vita, senza riuscire a emergerne mai più. A tutti noi sembrava che la sua tristezza fosse quella di un bambino, la voluttuosa e non curante malinconia di un bambino che ancora non riusciva a scendere sulla terra e che continuava a muoversi in un arido, solitario mondo fatto di sogni. In my solitude, you taught me. Memories that never die. Cos'è che può lenire la solitudine di un ragazzino? I libri. Pagine e pagine che si sfogliano sotto gli occhi avidi di bambino che scopre in quelle lunghe linee nere un sentiero tracciato abilmente e che conduce alla scoperta e forse anche alla libertà. Sono pagine che accompagnano Cesare Pavese attraverso la solitudine fino a un nuovo desiderio: imparare. Quando Pavese giunge al liceo Massimo D'Azeglio, la passione per la letteratura fa già parte della sua vita. La biblioteca civica diventa la casa dove trovare un calore che nulla ha a che spartire con il gelo della sua casa alle porte di Torino. E la scuola gli fa incontrare il padre putativo che ha sempre sognato nella figura del maestro Augusto Monti, letterato e antifascista rigoroso, un modello per tutti i suoi studenti. Gli anni del liceo passano veloci, la passione per la lettura continua fino a giungere alla scoperta degli scrittori americani Hemingway, Edgar Lee Master, Gertrude Stein. È un mondo reale, pieno, vivo, quello che viene descritto in quei libri, mentre l'Italia, con l'avvento del fascismo, inizia a perdere senso e morale. Nel 1930 Cesare Pavese discute la sua tesi sul grande poeta statunitense Walt Whitman. Poco dopo inizia a tradurre romanzi inglesi. Capitano Ahab, non è stata Moby Dick a stapparvi la gamba? Certo, è stata Moby Dick che ha lacerato il mio corpo e la mia anima finché sanguinarono uno dentro l'altra. Ah, sì. Le darò la caccia al di là del Capo Horn, al di là del grande Maelstrom di Norvegia, oltre le fiamme della perdizione, prima di abbandonarla. L'odio del capitano Ahab, che qui sentiamo nel famoso film interpretato da Gregory Peck verso la balena Moby Dick, è fra le prime fatiche di Pavese come traduttore e Melville diventa in quegli anni il suo scrittore preferito. Per questo lavoro riceve 1000 lire che gli permettono di provvedere alle sue spese. Nello stesso anno della tesi, infatti, Cesare perde la mamma e si trasferisce a vivere nella casa della sorella ormai sposata, dove resterà per il resto della sua vita. Oltre alle traduzioni, Pavese inizia a dare supplenze in cittadine come Saluzzo, Vercelli. Scuole piccole e studenti svogliati sono parte del suo orizzonte spirituale dell'epoca. Eppure è un insegnante nato che con delicatezza e ironia riesce a instaurare un rapporto con i ragazzi che incontra. Un'ironia che ricordano benissimo anche i suoi ex compagni di lavoro. Era questo, non aveva questo fondo di tristezza, in un certo senso di disperazione, di non speranza, avrebbe detto Vittorini allora. Ma questo non gli impediva di essere un uomo pieno di spirito, di arguzia, come spesso sono i piemontesi, i torinesi. Proprio così. Cesare è spiritoso, una qualità che gli permette di comunicare facilmente, almeno con le persone con le quali condivide gli interessi. Tra questi, un ragazzo che incontrerà anni dopo e a cui cambierà le sorti, trasformandolo in uno dei romanzieri italiani più acclamati. Ma per il momento è con questi bambini delle Langhe che trascorrerà in aula le sue giornate. Risalgono a quegli anni le prime poesie contenute nella raccolta Lavorare stanca, titolo quanto mai profetico, espressione di un disagio che non trova sfogo nelle lunghe ore trascorse in classe. Ma per fortuna, ogni tanto Cesare torna a Torino, agli amici della confraternita. Finalmente, con il 1934, arriva la proposta di Giulia Einaudi, grazie alla intercessione di Massimo Mila e Leone Ginsburg, a collaborare con la casa editrice. È una parentesi breve, interrotta dal bisogno economico che lo spinge a tornare a insegnare. Ma nel 1935 viene arrestato dopo una perquisizione in casa sua, dove vengono trovate lettere di compagni antifascisti. L'arresto è quasi un sollievo per Pavese. Il suo scarso impegno politico è per lui una pena da cui è difficile sottrarsi. Si rimprovera ancora di aver accettato il consiglio della sorella Maria e di essersi iscritto al partito fascista per ottenere il permesso di insegnare nelle scuole pubbliche, quando intorno a lui gli amici più stretti sono tutti più o meno coinvolti con il movimento Giustizia e Libertà. Giustizia e Libertà nasce nel 1929 grazie a un gruppo di ragazzi desiderosi di contrastare in modo reale il fascismo. Carlo Rosselli ne è il leader, un uomo coraggioso che paga con la vita l'impegno speso nel movimento, ucciso in Francia dove vive in esilio insieme al fratello Nello, da fascisti francesi prezzolati dal regime italiano. Anche in Italia le cose precipitano. Leone è già da un anno in carcere. Vittorio Foa viene arrestato lo stesso giorno di Pavese. Per lui una sentenza durissima, 15 anni di carcere. Cesare se la cava con 3 anni di confino a Brancaleone Calabro, in provincia di Reggio Calabria. Brancaleone, 9 agosto 1935. Cara Maria, sono arrivato a Brancaleone domenica 4 nel pomeriggio. E tutta la cittadinanza a spasso davanti alla stazione pareva aspettare il criminale che, munito di manette tra 2 carabinieri, scendeva con passo fermo diretto al municipio. Brancaleone è così lontana da Torino. Qui la gente si muove ancora con l'asino e il mare che luccica poco distante non serve a placare l'animo di Pavese, che detesta stare al sole senza fare nulla. Qui sono l'unico confinato. Che qui siano sporchi è una leggenda. Sono cotti dal sole. Le donne si pettinano in strada, ma viceversa tutti fanno il bagno. Ci sono molti maiali e le anfore si portano in bilico sulla testa. Imparerò anch'io e un giorno mi guadagnerò la vita nei varietà di Torino. La grappa non sanno cosa sia. Se me ne mandate qualche ventina di bottiglie, io penserei a berle. Come sto, ve lo scriverò un'altra volta. Eppure quei 3 anni non passano invano. E nasce persino qualche amicizia con la gente del luogo. Fra tutte, quella con Don Oreste Politi. La sera si passeggiava fino a tardi. E di giorno a casa sua, veniva qui a casa mia, veniva a mangiare qualche volta, mangiava anche a casa mia. Andavamo in campagna a caccia, veniva con me a caccia. È un'amicizia, quella con Politi, che solleva un po' Pavese dalla solitudine che sente, lontano da tutto e da tutti. Eppure al confino le giornate sono dure da passare. L'unica consolazione è la pubblicazione di Lavorare stanca nel 36. Lo stesso anno ottiene il condono, ma quando torna a Torino soffre d'asma, di insonnia e di risentimento. Anche la donna amata, la famosa donna dalla voce rauca, Tina Pizzardo, è appena andata in sposa a un altro. Alla notizia Pavese sviene, letteralmente. Ma anche nel momento più sconfortante esiste sempre la casa editrice, la sua casa. Nel 38 gli viene offerta una posizione stabile all'Einaudi, dove si occupa delle collane Narratori stranieri tradotti e Biblioteca di cultura storica, mentre traduce come un forsennato i suoi amati scrittori anglosassoni. Per il resto la vita non offre un granché. La maggior parte degli amici è impegnata in politica. Alcuni sono sempre più coinvolti nelle attività di giustizia e libertà che ogni tanto Cesare segue senza un vero credo politico. Non servono a distrarlo le visite dell'amico calabrese Politi. Io sono andato a Torino nel 39 e 4-5 anni siamo stati assieme a Torino e ci vedevamo sempre. Lui voleva sempre che io lo andasse a trovare. E quando lo andavo a trovare e gli telefonavo, lui era sempre disponibile, sempre. Cesare ha ormai 28 anni. Dalla morte della madre vive a casa della sorella Maria e del marito Guglielmo Sini, che lo accudisce come un terzo figlio, oltre alle sue 2 bambine. E come le bambine, anche Cesare si comporta come un bambino, sempre sospeso in un limbo imbronciato. Cesare si annoia, si consuma. Prende passione per una giovane ragazza che frequenta l'università e a cui aveva già insegnato al tempo del Massimo D'Azeglio. La giovane è vivace e piccolina, dalla risata facile e molto portata per la letteratura inglese. Povero Pavese, no, lui mi ha insegnato, lui era un fantastico maestro, mi dava lezioni di letteratura comparata. La ragazza si chiama Fernanda Pivano e ha solo 20 anni. Qualcosa in lei desta l'interesse di Pavese, che la corteggia, leggendole le sue poesie, che lei ascolta con pazienza. E poi dicevo, mi faceva vedere una poesia sua, gli chiedevo io. Allora lui mi leggeva una poesia per volta e diceva, ma leggo una, no, se no se la dimentica. Pavese le regala un soprannome, Gognin, bel faccino, e le propone il matrimonio per ben 2 volte. Ma lei forse saggiamente non accetta. Eppure rimangono in buoni rapporti, come difficilmente accadeva a Pavese, che ha sempre sofferto per le donne. Lui non aveva un buon rapporto con le donne, poverino. Le donne lo facevano soffrire. Lui si innamorava di queste donne cattive che poi non gli volevano bene. E allora poi soffriva tanto, poverino. Non era tanto la vita, ma ha avuto un'esistenza terribile, non se la meritava proprio. Le donne passano, e passa pure la guerra, che Pavese trascorre sotto falso nome insegnando nel collegio convitto dei padri somaschi. Al termine del conflitto torna alla sua vera casa, la sua vera passione, alla casa editrice Einaudi, che presto sarà teatro di un incontro che gli permette, almeno quello, di cambiare la vita a un ragazzo con la sua stessa passione, scrivere. Destini incrociati. A Destini incrociati, oggi sentiamo l'odore dei libri. L'odore della carta si mescola a quello dell'inchiostro, creando una poesia, un romanzo o anche un saggio, che danno alla testa, che rendono vivi, che schiudono mondi e insegnano la passione. Deve essere lo stesso odore che inebria il nostro protagonista, un ossuto Cesare Pavese che maneggia senza neanche troppa cura le pagine del libro della sua vita. Cesare, dopo la guerra, è tornato alla casa editrice Einaudi con l'incarico di potenziarla. Ne è il direttore editoriale e per questa ragione riceve quotidianamente manoscritti da ogni dove. Fra i tanti giovani che ripongono speranze in Pavese, ce n'è uno così insistente da risultare quasi irritante per il meticoloso direttore editoriale. Il giovane lo bersaglia di raccontini, di piccole cose che contengono però un germe capace di accendere un breve interesse in Pavese. Le missive si intensificano. Lo scrittore ne è infastidito, le ignora quando può. Ma non può ignorare un giorno l'annuncio di un visitatore che ha deciso di presentarsi in carne e ossa negli uffici della Einaudi. Signor Pavese, qui fuori c'è un giovane che dice di non avere appuntamento, ma che vuole assolutamente parlarle. Dice che lei conosce tutti i suoi scritti. Lo faccio entrare? Il giovane che assilla Cesare Pavese, chiuso nel suo ufficio della Einaudi, si chiama Italo Calvino. Italo Calvino. Con un sorriso svagato e fiducioso, sembra chiedere allo scrittore non solo udienza, ma quasi l'occasione di una nuova vita, di un'indicazione che solo un maestro come lui può insegnare a un giovane di talento che condivide la solitudine. Ma questa cosa del percorso, che in fondo mi è rimasta anche in tutte le cose che faccio, l'andare da un punto a un altro superando determinate difficoltà, questo è piuttosto solitario. Sono 15 gli anni che separano Pavese da Calvino. 15 anni e un oceano. Un'infanzia diversa e felice. Tutti elementi che fanno parte integrante di quella positività che a volte Calvino dimostra e che nulla ha a che spartire con la malinconia che da anni si muove impercettibilmente nel cuore di Pavese. Mentre Pavese si aggrappa alle sue langhe e sente il fastidio per il mare, Calvino porta con sé Cuba e la pienezza dell'oceano, con le sue onde lunghe che si infrangono sulle spiagge bianche. Solo le pagine di un libro possono unire animi così diversi. Sono nato in America perché una volta i sanremesi emigravano molto in America, soprattutto in America del Sud. I genitori di Italo sono il sanremese Giacomo, detto Mario, e la sarda Dorotea Eva Mameli, due persone legate alla terra a causa dei loro lavori, agronomo lui e botanica lei. Nonostante la Liguria sia la terra dei fiori e degli alberi, l'agronomia non assicura una vita senza pensieri ai coniugi Calvino, che decidono di accettare una proposta di lavoro dall'altra parte del mondo, a Santiago de Las Vegas, un piccolo paesino vicino a La Habana, dove diventano i direttori del giardino botanico tropicale. Siamo a Cuba, in uno spazioso bungalow circondato dalle piante, dove Italo Calvino vede la luce del sole caraibico il 15 ottobre del 1923. Il bambino viene chiamato Italo, ma non c'è nessun intento nazionalista in questo nome da parte dei coniugi Calvino, che sono in realtà una coppia libertaria e in un certo qual modo anticonformista. C'è piuttosto in questa scelta la testimonianza di un profondo struggimento verso una terra lontana, forse mitizzata, senz'altro molto amata. Eppure è a Cuba che Italo muove i primi passi e il paese per lui pare fatto di sogno, fra foglie giganti, fiori coloratissimi e profumi inebrianti. La terra è ricca, grassa, percorsa da piccoli insetti, animaletti che si nascondono fra le radici. Giocavo con degli spazi, con degli ambienti. Cuba è una terra magnifica da scoprire per un bimbetto curioso e immerso nella fantasia. Ogni giorno la natura tropicale apre il suo mondo misterioso alle scoperte di Italo, che ne fa tesoro nella sua immaginazione. Anche la vita familiare, a differenza di quella di Pavese, è serena e allegra. L'atmosfera è di studio, impegno, amore verso la natura e attenzione verso la gente. L'educazione è rigorosamente laica, scientifica, razionale. È proprio la natura che si mette di mezzo in questa storia idilliaca. Come conseguenza di un uragano che quasi distrugge il bungalow, la famiglia Calvino decide di tornare a Sanremo nel 1925. Mio padre appunto stava in America e appartiene alla categoria dei sanremesi che sono tornati. Mi è tornato poco dopo la mia nascita e ho vissuto a Sanremo i primi 25 anni della mia vita ininterrottamente. Nunca podré morir, mi corazón no lo tengo aquí. Allá me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. A Sanremo, Italo e la famiglia Calvino si stabiliscono a Villa Meridiana, dove Mario diventa direttore della stazione sperimentale di floricoltura. C'è un ampio giardino intorno alla villa che permette a Italo di continuare a scoprire il mondo attraverso la natura. Nel giardino, fra le centinaia di piante di cui molte portate da Mario da Cuba, come avocadi e pompelmi, Italo scopre anche l'albero del falso pepe, l'albero su cui anni dopo farà arrampicare Cosimo Piovasco di Rondò, il barone rampante. In questi anni di pace familiare, gli unici litigi sono quelli fra Mario e il figlio Italo. Il figlio che vuole solo scrivere e che si mostra riottoso quando ogni giorno il padre lo porta col fratello nell'orto di famiglia a raccogliere frutta e verdura. Per tutto il tragitto, i nomi delle piante da imparare in latino o in dialetto sanremese scandiscono i passi, inesorabilmente. Ma Italo gioca già con le parole, storpia i nomi scientifici per suo diletto, immagina la fuga. Eppure Italo sarà sempre grato a questa famiglia un po' sui generis, soprattutto per quel che riguarda gli insegnamenti alla tolleranza e alla laicità che gli vengono impartiti. La madre lo dispensa dall'insegnamento religioso a scuola, cosa veramente inaudita a quel tempo, e il giovane Calvino, che all'inizio soffre nel sentirsi un diverso in classe, col tempo comprende che sono proprio questo genere di esperienze che rinforzano il carattere, che sono i complessi di cui soffriamo, che ci rendono unici e originali. Una lezione che non dimenticherà mai più. Diciamo che ho avuto una prima parte dell'infanzia piuttosto solitaria. A scuola, nonostante tutto, Italo stringe anche grandi amicizie. Prima fra tutte quella con Eugenio Scalfari, un giovane romano trasferitosi a Sanremo con la famiglia. Sono i primi anni 40. La guerra arriva in Italia. Italo ha un'impostazione troppo cosmopolita e tollerante per sopportare l'idea di un arruolamento coatto fra le fila della Repubblica Sociale di Salò. Questo d'oggi non è un giornale luce qualsiasi, ma è una testimonianza schietta ed aperta della bandiera della patria finalmente risollevata. 9 febbraio, giorno del giuramento del giovane esercito repubblicano. Ecco Rodolfo Graziani, l'intrepido soldato che per primo dette nome ed esempio. Giura e sottoscrive il condottiero, il vincitore d'Africa, l'animatore d'oggi che per primo bacia il tricolore della rinascita nella sede del comando supremo. Lo seguono i generali che hanno accolto il suo invito, uomini tutti noti alla nazione, provati al fuoco e alla lotta. Nel 1943, a soli 20 anni, Italo scappa in montagna e raggiunge i partigiani che lo conosceranno con il nome di Santiago, dalla sua città di nascita. Anni duri, ma che lo svezzano fisicamente e mentalmente. Se c'è un modo per diventare grandi in fretta, questo è la guerra e la vita con i compagni d'arme. Tra le mille differenze che esistono fra nature così complesse come quelle di Cesare Pavese e Italo Calvino, oltre al diverso clima familiare che li segna psicologicamente, c'è senz'altro questa capacità da parte di Calvino di affrontare con consapevolezza già adulta la dimensione politica e l'impegno del suo essere uomo sociale. Mentre queste peculiarità, nell'introverso e caratterialmente depresso Pavese, sono mortificate, implose. La sua non è una figura da eroe esemplare. Mentre il giovane Calvino rischia la vita in montagna, Cesare oppone alla guerra l'impegno verso la prosa e la poesia, il suo mondo interiore e la scrittura, sia mentre si nasconde nel collegio dei padri somaschi che quando riprende il coscienzioso lavoro alla casa editrice Einaudi. Ma è proprio lì che presto le strade dei due uomini si incroceranno, per dar luogo a una sorta di passaggio del testimone che da Pavese passa al giovane Italo, consacrandolo nell'Olimpo dei grandi scrittori italiani. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati entriamo in un luogo eletto, un luogo amato da molti e in special modo dai due protagonisti della nostra storia, per i quali sarà casa, passione e lavoro per tanti anni. Parliamo della casa editrice Einaudi, fondata nel 1933 dal giovane Giulio, un marchio che diventa in breve tempo leggenda, pubblicando tutte le migliori menti italiane del tempo come Fenoglio, Cassola, Rigoni Stern, Lalla Romano, Anna Maria Ortese, Natalia Ginzburg e tanti altri. L'incredibile macchina da lavoro alla base di questo successo è Cesare Pavese, che tutti i giorni si presenta presto in un ufficio che porta ancora i segni dei bombardamenti. Arriva sempre alla stessa ora, con i piedi esposti ai calcinacci, e si mette a correggere le bozze come ogni mattina. Quando al suo ufficio si affaccia un giovane Italo Calvino, che da tempo lo assilla con i suoi piccoli racconti pieni di entusiasmo, e sembra quasi di vedere Pavese alzare gli occhi al cielo e agitare la pipa verso il ragazzo sanremese. È accerchiato dallo zelo del ragazzo, e l'unica reazione che conosce Pavese è il contrattacco. Lo provoca, gli chiede di smetterla con le bambinate e provare a fare sul serio, provare a scrivere un libro. Pensa così di toglierselo dalle scatole, di eliminare per sempre il fastidioso Calvino. Per Pavese la letteratura è una cosa seria, non è un gioco da ragazzi. Non immagina Pavese che quel ragazzo davanti a lui è già stato reso uomo dalla guerra e che il fuoco narrativo che arde in lui sia alimentato non solo con la linfa delle piante del giardino di casa, ma anche del sangue dei compagni morti in guerra, della durezza della vita da partigiano. Il tempo passa e Pavese pensa di essere riuscito nel suo intento. Il seccatore è debellato, ma non è così. Calvino ha scritto. Calvino ha lavorato a un romanzo complice un concorso indetto da un'altra casa editrice, la Mondadori. Il romanzo si chiama Il sentiero dei nidi di ragno e Italo Calvino diventa scrittore. Faccio lo scrittore. Sì, cioè scrive... Scrivo delle cose che alle volte diventano dei libri, che vengono pubblicati e venduti nelle principali librerie. Pavese è impressionato. Improvvisamente è come se attraverso le spesse lenti dei suoi occhiali mettesse a fuoco il volto del giovane. Ne scorge la fronte alta, il naso leggermente aquilino, gli occhi sognanti ma risoluti al tempo stesso, e decide di accettare questo talento che gli nasce fra le mani. Da questo momento Pavese adotta Calvino, tanto quanto Calvino sceglie Pavese per maestro e mentore, una sorta di Caronte che, senza saperlo, traghetta lo scrittore in erba non solo attraverso i tempestosi mari della letteratura, ma soprattutto alla sponda sicura e accogliente della Einaudi, il centro di tutte le cose per Pavese. Negli anni a venire diventerà il centro di vita e di cultura anche per Calvino, con un passaggio del testimone graduale ma irreversibile fra i due uomini. Pavese è sempre più stanco, non del lavoro, ci mancherebbe, ma della vita. È solo, il suo sogno di un amore vicino viene continuamente deluso da mille storie senza capo né coda. La sua scrittura, nonostante il successo delle ultime opere, invece di farlo gioire, lo lascia indifferente. C'è solo il lavoro, e si sa, lavorare stanca, come vivere. Il suo capolavoro, La luna e i falò, vede la luce nella primavera del 1950. E sebbene sia il capolavoro della maturità, che non si può chiamare per la sua struggente poesia, per il rimpianto, la dolcezza delle vigne e la durezza della vita contadina che racconta, ebbene il libro non serve a farlo sentire meglio. Nel giugno dello stesso anno, Pavese vince il premio Strega per il romanzo La bella estate. Ma la sua estate è tutt'altro che bella. Ha un pensiero fisso, il suicidio. Ottimo compagno degli ultimi anni, di cui parla quasi con affetto, anche nelle lettere agli amici di sempre, come lo sceneggiatore di Fellini, Tullio Pinelli. Una delle sue ultime lettere è stata scritta a me e a mia moglie, dove appunto annunciava a parole più o meno velate che voleva suicidarsi. When I was green, greener than a hill, where flowers grew. Anche l'amica Bona Alterocca racconta quanto il suicidio fosse ormai il pensiero fisso di Cesare Pavese. Andammo a cena in collina, poi in un locale in riva al Po dove suonavano Verde Luna. Discorremmo di cose senza importanza. Solo a un tratto, guardando le acque buie del fiume, osservò che annegare non gli sarebbe piaciuto. Meglio il velino. Pavese ha preso la sua decisione. La sera del 27 agosto si ferma all'albergo Roma, depone i suoi occhiali sul comodino, prende tutte le pillole per dormire che di solito centellina diligentemente e con un solo gesto le porta alla bocca. Solo un leggero disgusto al sapore amarognolo del veleno, un sapore che sente già da tempo. Adesso a modo mio sono entrato nel gorgo, contemplo la mia impotenza, me la sento nelle ossa e mi sono impegnato nella responsabilità politica che mi schiaccia. La risposta è una sola: suicidio. Non ci si uccide per amore di una donna, ci si uccide perché un amore, qualunque amore, ci rivela nella nostra nudità, miseria, infermità, tutto. Lo trovano la mattina. Chiamano la sorella Maria, che lo accudisce per l'ultima volta come un figlio amatissimo. Il tentativo è di non far trapelare la notizia sui giornali, ma su tutti, invece, viene pubblicata anche l'ultima frase scritta sul frontespizio del libro Dialoghi con Leucò. Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene, non fate troppi pettegolezzi. Quando Calvino apprende la notizia, rimane senza parole. Lo shock è totale. Mai avrebbe immaginato che dietro la ruvidezza e la meticolosità del maestro amatissimo, del mentore, del suo primo lettore, si nascondesse una pena così infinita. Il senso di colpa è totale. E forse gli vengono in mente i versi di una delle poesie più belle di Pavese, che Vittorio Gassman ha reso memorabile. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. Il temperamento di Italo, così diverso, non gli fa sentire lo strazio dell'amico. Il Calvino di questi anni è un giovane pieno di entusiasmo, lucido, fattivo. Un temperamento che si riflette anche nei romanzi dei suoi esordi, tutti pervasi da un impegno politico e sociale, che riesce però a vestirsi di leggerezza e di un sottile velo fantastico, lo stesso che lascia presagire la scrittura piena di simbolismo degli anni a venire. Ma soprattutto, forse in onore del suo maestro, Calvino, oltre alla scrittura, sceglie di appartenere alla casa editrice Einaudi, iniziando una collaborazione che dall'iniziale impegno nell'ufficio stampa lo porta negli anni a diventarne uno dei dirigenti più impegnati. Calvino dunque scrive, e con successo. Poco dopo la morte di Pavese, nel 1952, pubblica Il Visconte Dimezzato, a cui seguiranno Il Barone Rampante e Il Cavaliere Inesistente e tanti altri capolavori. Nel 1964 Italo torna anche alla sua Cuba, dove la rivoluzione di Fidel Castro ha liberato da pochissimi anni il paese dal regime di Fulgencio Batista. A La Habana sposa la compagna argentina Esther Judith Singer e in questa occasione conosce anche Ernesto Che Guevara, di cui diventa amico. Viaggia, scrive Calvino, senza il bisogno di un luogo di riferimento. Nella mia giovinezza io scrivo molto bene in una stanza d'albergo, in un luogo completamente anonimo. Forse perché allora il mondo di fuori era talmente assediante che era lì. Calvino intanto si trasferisce a Parigi, poi torna di nuovo in Italia, questa volta a Roma. I suoi libri ormai sono venduti in tutto il mondo, come quelli di Pavese del resto, l'uomo a cui Italo deve tutto, prima fra tutti la passione per la carta, il libro in se stesso, come oggetto, strumento di cultura e di ricerca. Un concetto chiarissimo anche a Umberto Eco, per anni co-direttore editoriale della Bompiani, che ne parla in un documentario degli anni 50 sul mercato editoriale. Dove la cultura, in fondo, anche quando diventa oggetto di mercato, ha una possibilità intima di sottrarsi al dominio mercantile e di prevalere. Calvino, con la sua vitalità, ricorderà sempre il maestro che con altrettanto entusiasmo non si è sottratto al compito di valorizzare quel giovane nel suo affacciarsi al mondo della letteratura e lo ha ripagato con una produzione letteraria che fa parte della nostra cultura e più che mai del nostro presente. Changes on the cards, but this time it will be hard. You should never spit at all. I wish I had to, as I could follow. I write the ending without any sorrow. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui,